Ora vale la pena, sì. Eccola. Mi pare che sia la frase con cui inizio il famoso libro di ormai 45 anni fa, pensato 50 anni fa. Occorre indubbiamente il coraggio. Già. E non so che cosa volessi dire quel tempo, già lì avevo cominciato a scrivere un po' a vanvera, cioè come veniva, veniva. Sì, ed è venuto perché certe cose a me sembravano ovvie, molto ovvie, come forse per quello che dicevo stamattina, perché avevo capito forse prima di diventare psichiatra la storia della negazione. Questa faccenda della menzogna cosciente però aveva una matrice, una radice dentro, per cui si formavano delle immagini oniriche, false, e che non corrispondevano alla realtà. E poi fatto questo, fatto il rifiuto, e non la negazione, ho scoperto che poi invece ho visto che si possono fare delle immagini che è un pensiero, che riesce a vedere e non comprendere, perché quello bisogna arrivare al pensiero verbale, vedere cose che la coscienza non vede, specialmente nella realtà umana, che ha questa dimensione di realtà non materiale del pensiero. La cosa non ce l'ha. La cosa che noi percepiamo, l'oggetto è più o meno metallico, più o meno microfono o fino al corpo, la realtà biologica, non ha questa realtà interna, che la coscienza con la ragione non ha mai capito. E invece io ho pensato di andare a fondo a vedere questo, partendo, beh, ve l'ho confessato un po' prima, dal problema della malattia mentale. Nei lontani quasi 60 anni, mamma mia, e io vedevo quelli che si chiamavano, in verità si chiamavano ospedali psichiatrici, però nel linguaggio popolare si chiamavano manicomi, eccetera, ricoveri, persone escluse dalla società, e che appunto perché non esisteva nessuna cura, nessun pensiero di cura. Perché, non so, i medici erano arrivati e stavano arrivando a scoprire gli antibiotici, eccetera, a portare il livello di sanità del corpo, livelli ottimi di sanità del corpo, quando si trattava di mente. E poi è venuto fuori era quei tempi, quando io già lavoravo per affrontare questo problema umano. La storia del focaltismo, dell'esistenzialismo, eccetera. Per cui la malattia mentale non esiste. La realtà umana è quella. Quella che chiamano follia non è pazzia, è natura umana normale. E io ho detto, ma questi sono pazzi. Eppure tutta la cultura, almeno ormai saranno 80 anni, è questa. E nessuno la mette in discussione, specialmente la sinistra. E adesso qui per breve, non voglio mica trattenervi molto, la storia dei diritti civili. Passo subito alla storia dei diritti civili, perché lì posso vedere e dirvi quello che c'è a monte e tutte le lotte laiche per ottenere queste libertà personali, per riconoscere agli individui un intelletto per cui possono decidere loro quello che vogliono fare, specialmente nella storia del rapporto uomo-donna e della sessualità. E non so se dire prima questa, no, forse è meglio che la dica dopo. Prima questa cosa della eterologa. Fecondazione assistita, eccetera, eccetera. Perché questa cultura cristiana vuole controllare il movimento dei gameti, il movimento della... Devono stabilire loro come funziona, qual è la verità. E no, per cui chi ha detto che sono stati magistrati a dire no, è un diritto, eccetera. E abbiamo ottenuto questo. Ma è sufficiente oppure non è sufficiente? E non sarà il caso, bisogna pensare che c'è a monte? Ecco, faccio questo collegamento con quello che poi ha ripetuto Elda. No, cioè tu questo non l'hai detto, hai detto la storia dei bambini, eccetera, ma non hai detto che viene sostenuto come cosa non negoziabile, che la vita umana comincia con lo zigote, con l'unione dello spermato, con la concezione. Che significa? Significa che l'identità umana è la realtà fisica. Significa che uno si nasce in un certo modo, più o meno biondo, più o meno alto, più o meno basso, più o meno con gli occhi azzurri, eccetera, e quello rimarrà per tutta la vita. E poi ci sono quelli che poi, geneticamente, hanno la pelle nera, o ce l'hanno gialla, o hanno gli occhi obliqui, e quelle sono razze diverse. Allora, quando si tratta di affrontare e dare la liceità delle... Allora non si tratta, scusa, di fare soltanto il pensiero che lo fanno perché quelli che possono economicamente, eccetera. No, no, no. Qui c'è dell'altro, che il fatto genetico è un fatto di realtà del tutto secondaria sulla realtà umana. Non conta niente che uno sia biondo o moro. Non conta niente, la stupidità violenta di dire che l'identità umana è fatta dalle caratteristiche fisiche, a parte che porta al razzismo più totale e nazismo, per cui se uno è moro e nero di pelle è un essere inferiore, beh, chiaro, bisogna distruggerlo, no, no. Ma evita, perché questo che è impotenza, non sono mai riuscito a capire niente come funziona la realtà mentale. E allora questo che è stato detto pure, l'ha detto il professor Masini. Non è importante prima scoprire che gli esseri umani hanno di fondo un'uguaglianza totale. Siamo tutti perché la nascita è uguale. Non c'è nessunissima differenza tra il cinese, il nero del Congo, l'americano e l'eschimese. La dinamica, per cui dalla realtà biologica, compare nella realtà biologica, compare la percezione, si forma il pensiero, non è lo Spirito Santo che scende dal cielo. È un fondamento per poi poter procedere ad ogni democrazia, ad ogni uguaglianza, questo discorso dell'uguaglianza. Se no, i diritti civili diventano o conquiste perfettamente inutili. Quindi, il rapporto, quello che conta è il rapporto uomo-donna. Ed è lì che poi la nascita biologica dell'individuo si potrà sviluppare, formare e sviluppare. Chiaro? Oh. E quindi quello che conta è quello, bisogna considerare che invece c'è una cultura di, con questa mostruosa alleanza, l'ho detto anche stamattina, sarà anche di 5.000 anni, l'alleanza per cui poi l'identità... umana è quella razionale, l'ho detto stamattina. La mente di fatto esiste, quella di prima non esiste. Oppure, bene, qualche scienziato americano dice che è un pensiero deteriore. Beh, Platone diceva che è una razza animale, per cui il bambino non è un essere umano. Qui c'è questa cultura che nessuno combatte a sufficienza. Si dà per scontata, per cui si pretendono regalini di 80 euro di ottenere che la magistratura eccetera, ma non si affronta veramente il problema in questo modo. Diciamo pure anche la storia della laicità. Questa storia E in particolare quello che è stato detto, questa polemica internazionale. Un racconto magari a livello personale, che vi confesso quello che mi sta succedendo. Che di fronte a questa storia del matrimonio, un matrimonio, ma a me, sto Alfano, mi ha fatto incazzare in una maniera mostruosa, anche se gli imbecilli servono, perché questo è un fascista mostruoso. E cosa mi ha fatto ricordare? Che a 4-5 anni, per caso, fui portato in una macchina di un federale fascista. E vomitai tutto nella mansione. E mi ha fatto riflettere. Purtroppo sono nato in epoca fascista, eccetera. Adesso è successa una cosa strana, che di fronte a questa cosa, per cui hanno gli omosessuali, che si c'entra? Perché gli omosessuali sono liberi cittadini uguali agli altri. Se rispettano codice penale, codice. Hanno tutti i diritti degli altri, che cacchio vuol dire? No, tu non ti puoi sposare. Nella Costituzione, falsi, bugiardi, non c'è scritto che deve essere tra uomo e donna. L'articolo 29 dice rapporto naturale. Quindi se due persone adulte vogliono vivere insieme, ci sono miliardi di persone, due studenti che per risparmiare soldi prendono la stanza insieme, fratelli e sorelle più o meno anziani che convivono, eccetera. Che cosa facciano poi nel letto o sotto al letto? Che cosa cazzo frega a Alfano? E poi così, aspettando, è venuta fuori una certa storia. Boh, insomma, come dire, o forse lo dico dopo, che ho fatto un movimento un po' così, in genere sono un po' un tipo un lupo solitario. Beh, insomma, ho avuto un rapporto, intendiamoci, oh, per carità. No, no, così proprio di gentilezza, di simpatia, come dire. E per cui poi ho fatto, è comparsa un'immagine di donna. E dopo poche settimane, 2 settimane, 3 settimane, ho avuto un raptus psicotico. Stavo lì seduto, si festeggiava il compleanno di un bimbo di 2 anni. E a me mi è piaciuto, ho visto una ragazza. La pietà non dovrei, perché sono una certa età quella. Ma io un movimento. Si era messo furbo. Un impermeabile. Cacchi, no? Come quello di Humphrey Bogart. Con la cinta, capito, alle spalle. Cazzo, mi ha rievocato tutta la giovinezza, quando c'era Laurent Bacall, eccetera, eccetera, è chiaro. Tutta la storia, Casablanca, no? Oh, cose terrifiche, Chris Bergman, tutte cose terrificanti. Ma la cosa sconvolgente era il modo come si muoveva. Magra, tanto che mi ha provocato, ma ho vinto, Fai il medico, dice che quella sta alle soglie dell'anoressia. Non l'ho pensato, perché è stato preso dal movimento. Il modo come girava su se stessa, quale fosse i piedi di una ballerina, Non lo posso ripetere, se no casco per terra. E io, dopo tanti anni, una terribile malattia, che è successo a qualcuno? Andate a vedere? Una terribile malattia che mi ha portato a prenotare la tomba, il forno crematorio per essere bruciato, eccetera. Ho ballato dopo questa, avevo ballato dopo questa malattia. E ho visto queste gambe, si chiamano gambe, quelle sopra sono le cosce, parliamoci bene, le gambe che si muovevano disegnando una cosa. Ero alla festa. Ero alla festa del bambino e in un certo momento ho avuto un raptus psicotico. Devo disegnare. Datemi la lavagna, no? C'era una lavagna dei bambini, dico, datemi la lavagna, che devo disegnare. Gentilmente il super prof dice, se c'è mi pia uno straccio di blocco da cartaccia. E dico, dammi un pennarello, e mi dà uno straccio di pennarello, di quelle robette da una lira per i bambini, eccetera, e faccio un disegno, un profilo di donna. Io gli ho detto una cascata azzurra. E la direttrice di Left mi ha concesso licenza. D'accordo, di metterlo sul Left nei prossimi numeri. Altra. La domanda per voi è: quanto c'entra questa arrabbiatura per i diritti degli omosessuali a questa realizzazione di un'immagine di donna, che è venuta fuori così, a mo' di raptus, e come è venuto fuori il vomito per i fascisti. Basta.